Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Dopo la splendida trasmissione del buon Jerry, che è sempre qua, che facciamo diciamo coppia come trasmissione, resistiamo ancora nello spazio di Radio Città del Capo, ai confini dell'impero, tra diciamo parentesi o tra le virgolette, noi torniamo con un buon saluto al buon Jerry, ovviamente come 451 frammenti sonori, sempre la domenica, qui sulle frequenze di Radio Città del Capo. È arrivata la neve, Max, sei contento? Sì. Sono arrivato anch'io, anche se sono un po' distratto adesso. Tu sei anche Niente perché io sono un gentleman, no? Pardon, dunque non infierisco. Ma no, tanto riguarda sempre la musica. No, riguarda sempre la musica, potremmo. Assolutamente. Insomma, non andiamo oltre, però, perché è impazzito il buon Max. Ovviamente un saluto a Max Macchia ed Elzer Scarpa. È impazzito perché il buon Jerry ha portato dei regalini musicali. Dunque, insomma, si è partiti con vinile, poi tra l'altro. Super vinile. Dunque. Max non ha capito più nulla, infatti c'è una voce un po' innevata. Ho la voce innevata. C'è una voce da fredda, proprio da. Come fredda? È un microfono nuovo stasera. Abbiamo scoperto che c'è un microfono nuovo. È un po', insomma, in clima di natura attuale, dunque neve. E noi stasera apriamo subito, perché sennò rischiamo anche di perdere ulteriore tempo, perché qua col GR di Radio Popolare inizia prima, finisce dopo, insomma non si capisce bene il discorso orari. Noi, per non perdere ulteriore tempo, entriamo subito sul tema di stasera, ricordando comunque in anticipo il nostro blog, per coloro che fossero interessati a riascoltare le trasmissioni in podcast e ovviamente verificare anche le scalette, di cui siamo anche un po' in ritardo per inserirle. Il nostro blog è sempre 451frammentisonori.noblogs.org. E stasera, entrando proprio nel merito della trasmissione, apriamo con una puntata dedicata allo space jazz. Questo tema l'abbiamo già affrontato nel passato un po' più remoto di 451, soprattutto cercando di far emergere, far ascoltare all'interno di 451 frammenti sonori materiali dello space jazz, soprattutto legati agli anni 60 e 70. Stasera cercheremo di fare ricollocare questo filo rosso che noi spesso cerchiamo di dipanare all'interno di 451, partendo sì dagli anni 70 con degli autori che non avevamo in parte mai inserito all'interno delle nostre scalette, ma per arrivare poi agli anni 80, agli anni 90 e anche qualcosa degli anni 0, secondo una nostra declinazione connessa allo space jazz, perché come linguaggio, come formula musicale un po' sicuramente si è persa, non si può richiamare totalmente agli anni 70, però ci sono degli esperimenti, dei progetti che noi abbiamo collocato all'interno di questa denominazione. E in apertura un mostro sacro, un disco splendido che vuole fare da apripista a questo viaggio nello spazio e nello space jazz, no? Sì, citando insomma i grandi dello space jazz, ovviamente partendo dal grande Coltrane, che forse è stato il primo insieme a Sun Ra, Miles Davis assoluto di The Silent Way, Beaches Brew e compagnia, bisognerebbe citare Quincy Jones fine degli anni 60, Oliver Nelson, che poi per certi versi troveremo qualcuno di questi, certo. Dentro Hancock, ma non preannunciamo troppo, dai. Marcus Belgrave, Detroit Jazz, non soltanto la Detroit Techno, che forse incroceremo più avanti. Marcus Belgrave faceva uscire nel 1974-75 disco strepitoso tra Gemini, tra una sorta di jam parajazzistica, mini Moog, che creavano atmosfere decisamente spaziali e creava quel suono che poi diventerà appunto space jazz, una sorta di diramazione di quei suoni psichedelici che poi tali non sono mai diventati, sono diventati sempre più invece spaziali, probabilmente anche con una visione molto più ampia dello spettro sonoro dei jazzisti e di quanti sperimentavano in quest'ambito. E Gemini sicuramente di Marcus Belgrave rappresenta una delle pietre miliari di questo particolare filone, vogliamo chiamare così, space jazz, quindi 451 frammenti sonori. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo questo capolavoro di Marcus Belgrave, l'album Gemini 1974, un disco assolutamente da andare a riascoltare. Formazione poi di tutto rispetto, con Marcus Belgrave ovviamente alla tromba e alle percussioni, ma anche Wendell Harrison, Philip Renil, Roy Brooks, Billy Turner, Lorenzo Brown, Ed Pickens, Erdo McKinney e Daryl Dibka. Grande disco che ricordo ovviamente tutto il periodo anni 70, dove lo space jazz, il jazz psichedelico e anche un jazz rock molto aperto era contrassegnato e contrassegnava gran parte dei progetti anche di jazzisti come lo stesso Belgrave, che uscivano ovviamente da una fase post-bop e chiaramente ancora tributari di tutto un universo jazz che piano piano, già dagli anni 60 e soprattutto attraverso personaggi come Coltrane e Sun Ra, erano già fuori dal contesto canonico denominato jazz e attraversavano altre dimensioni parallele a questo linguaggio. Splendido lavoro, e ricordiamo giustamente, perché bisogna ricordarlo anche se molti non lo fanno, che Marcus Belgrave oltretutto è stato contattato, inserito dentro un progetto assolutamente dirompente del grande Carl Craig, dunque parliamo della scena di Detroit, ma quella connessa alla techno di Detroit, in un progetto che si chiama The Detroit Experiment, dove appunto è stato tra virgolette contattato e inserito Marcus Belgrave, ma anche grandi altri jazzisti connessi al jazz funk degli anni 70 come Benny Moffin e altri meno famosi, dentro questo progetto orchestrale assolutamente innovativo, il primo lavoro del 2002 per questa Detroit Experiment, che sicuramente prima o poi inseriremo all'interno. È una minaccia, Max, però sì, inseriremo all'interno di 451, anche per vedere insomma questo collegamento forte che noi sempre abbiamo cercato di rimarcare all'interno di 451 frammenti sonori, tra universi temporali e anche musicali differenti. Dunque parliamo della scena techno di Detroit connessa a tutta la musica invece che nasceva e pollulava tra gli anni 60 e 70, sempre a Detroit, legata al jazz, quello più aperto, quello più sperimentale, e dunque questi collegamenti li rivediamo proprio in questi progetti che nascono negli anni zero con personaggi di 60-70 anni insieme a personaggi molto più giovani. E adesso ci spostiamo a trovare una piccola chicca che una volta abbiamo anche inserito di sguincio all'interno di una trasmissione di 451 frammenti sonori non presentata. Questa volta la presentiamo, una piccola chicca, e andiamo a trovare chi. Beh, parlando di Lonnie Liston Smith, parlando di Bob Teal, parlando di personaggi come addirittura il vecchio Louis Armstrong, parlando di personaggi come Cary Butler, parlando di personaggi come Bernard Pardee e Oliver Nelson. Di poco. Infatti, 4 minuti veramente che raccoglievano tra il meglio del nuovo jazz dei primi mesi degli anni 70, infatti il pezzo del 1970 stampato dalla Flight Dutchman. E tra l'altro, continuando insomma il discorso di Eliseo sulle commistioni e sulle dialettiche create dentro queste nuove sonorità, c'è da dire che la Flying Dutchman era assolutamente aperta anche a quello che era un funky che si muoveva verso nuove frontiere. In effetti produceva dischi di G. Scott Heron, anche cose particolari come il Gatto Barbieri più spaziale, però con quegli influssi latini che hanno contrassegnato insomma la sua carriera, prima poi di fare il botto con Ultimo Tango a Parigi, chiaramente, e poi anche insomma perdersi poi dentro rivoli più pop e meno sicuramente sperimentali. Gente come Oliver Nelson, appunto, lo stesso Bernard Pardee, che sentiremo qua al basso, che hanno dialettizzato la faccenda del jazz, creando poi quello che sarebbe stato un funky molto più di ricerca, meno legato al soul e più invece a un'idea spaziale, sperimentale delle musicalità nere, e anche cantato che paradossalmente va a trovare anche un certo Stratos con Leo Thomas, sì. Cantante legato all'avanguardia frigezzistica e anche alle sperimentazioni vocali. Sentiremo qua dei singulti che ricordano un po' il grande Demetrio. E poi facciamo un'anticipazione, avremo anche un altro soggetto femminile che ricorderà nella scaletta, nella seconda parte, Demetrio Stratos. Dunque, vedi, abbiamo due maestri di Stratos. Sì, due maestri di Stratos, perché ovviamente nati prima del grande Stratos. Bene, andiamo a sentirci quindi Leon Thomas insieme al vecchio e redivivo, lo fanno diventare spaziale, incredibile, sì. Louis Armstrong. Thank you. We'll be right back. E rientriamo in diretta dopo questo capolavoro collegato a un altro assoluto momento monumentale di Leon Thomas che abbiamo collegato. Ricordiamo anche il brano The Creator as a Master Plan del 1970. Abbiamo collegato questo capolavoro assoluto ancora oggi a distanza praticamente di 37 anni. Mantiene, fa paura, mantiene un livello di avanguardia assoluto. Herbie Hancock, il disco è Sextant, uscito nel 1973, un periodo dove Hancock sperimentava piene mani in ambito elettronico con un brano che è assolutamente avveniristico, un jazz elettronico e uno space jazz che viene assolutamente portato alla massima essenza, uno space jazz legato ovviamente alla cultura e al linguaggio afroamericano, e lo si capisce anche dalla copertina bellissima dove appunto dei danzatori africani con costumi proprio tradizionali danzano con lo sfondo una luna gigantesca, quasi una dimensione immaginifica prospettata e quasi un altro pianeta. Sì, un altro pianeta, sembra un altro pianeta, appunto, con una luna gigantesca che gravita intorno allo stesso pianeta. Comunque veramente bellissima, se avete modo anche di andarla a vedere su internet la troverete. Sextant, l'album del 73, le registrazioni sono del 72 ed è giustamente, ne parlavamo con Max riascoltando ulteriormente questo brano che ci sorprende sempre agli riascolti dopo 1, 2, 3 anni. Il collegamento fondamentale che ci fu anche con la nascita della techno di Detroit, che prese a piene mano da questi linguaggi avveniristici elettronici di quel periodo, questo funk appunto psichedelico, spaziale, elettronico, che apriva totalmente il suono verso altri universi, altri mondi. All'epoca criticatissimo come al solito da tutto l'universo jazz, poi non è una novità, Hancock fu preso di mira molto pesantemente anche negli anni 80 con la sua sperimentazione electro, e adesso che sono proprio prototecno, infatti lui comunque mantenne un collegamento comunque anche nella fase successiva con la nascita della techno e tutta l'elettronica che poi ancora adesso riascoltiamo, e ancora adesso anche nella musica cosiddetta munnezzara, così la chiamiamo, dance munnezzara, prendono a piene mani anche da quella techno, ovviamente portandola a dei livelli infimi perché chiaramente deve essere spendibile sul piano commerciale. La cosa che fa pensare appunto che adesso Hancock è ritornato a fare gli standard e adesso di nuovo lo stanno riosannando, come cambiano le cose, ma diciamo più che tutti i tempi cambiano, ma come le cambiano critiche, le cose e rimangono sempre uguali. Dopo Herbie Hancock, questo capolavoro Sextant 73, andiamo a trovare un altro personaggio assolutamente eclettico. Siamo nel 1972, prima di lasciare la parola a Max, ricordiamo per coloro che avessero perso questo passaggio, stasera sullo Space Jazz portiamo avanti un discorso collegato nella prima parte agli anni 70, diciamo quasi ai fondamenti dello Space Jazz. Nella seconda parte andremo in ordine cronologico ad affrontare parte degli anni 80, 90 e anni 0 per quelli che potrebbero essere considerati, almeno da noi, dei continuatori di questa materia assolutamente informe e incatalogabile che abbiamo voluto definire Space Jazz in varie diramazioni. Beh, se c'è un personaggio che sicuramente è da trattare nella faccenda dello Space Jazz, non possiamo esimerci da trattare Stomu Yamashita, che fece del jazz veramente un territorio amplissimo e veramente contaminato. Usiamo questo termine non a caso questa sera, visto che sì, c'è una postmodernità già dentro l'idea di Stomu Yamashita, seppur quella poi postmodernità lo porterà anche un po' a fare della solfa, così dicendo, della fuffa, soprattutto con un progetto che invece per quanto riguarda nomi, ma forse è stato proprio quello il problema, c'era gente tipo Klaus Schulze di Mad mezzo Steve Winwood, Hugo Hopper, dentro Go, poi però la faccenda appunto veramente troppo contaminata e alla fine sapeva veramente di molto poco. Ma stiamo parlando di fine anni 70, quando diciamo che Tomo Yamashita era già famoso come space jazzista tra virgolette chiaramente, e quindi fece un po' una sorta di carriera da grande star dentro questo microfilone, se vogliamo così considerarlo tale, come dicevamo prima. In realtà Tomo Yamashita nasce come grande sperimentatore legato all'avanguardia, all'avanguardia contemporanea. Il primo album, Red Buddha, è sostanzialmente un'escursione dentro i suoni ritmici avanguardistici. Poi con Tomo Yamashita East Wind si va verso quella complessità di Tomo Yamashita, con riferimenti al free, riferimenti a certa musica cosmica che poi appunto lo faranno incrociare con Klaus Schulze, e a certo jazz rock però molto più aperto e molto più di dinamica rispetto a invece a un jazz rock più derivativo, diciamo così, da Davis in poi, e con sperimentazioni veramente interessanti anche con altre progettualità che hanno visto insomma personaggi anche piuttosto interessanti come Brian Gascoigne e Gary Boyle, oltre al già citato Hugo Hopper, ad esempio One by One, altro disco importante di quel periodo. Noi andiamo però a trovare Floating Music, si tratta proprio di un flusso, di una sorta di navigazione musicale dentro sonorità che si aprono veramente a universi spaziali. Tomo Yamashita, Radio Giornale, poi seconda parte di 451. Thank you. Thank you.